GR Sport. Buongiorno a tutti da Carlo Genta. Goff autorete di Rise allo scadere o forse oltre lo scadere dell'ultimo dei 4 minuti di recupero. Così il Chelsea pareggia ad Anfield Road, tana del Liverpool che era andato in vantaggio nel finale di primo tempo con l'olandese Kite. Si chiude quindi 1-1 con questo colpo di scena la prima semifinale di andata di Champions League, aspettando poi Barcellona-Manchester United di questa sera. Derby inglese interessante solo per intensità emotiva, ma sentiamo l'arrabbiato allenatore dei Reds, Rafa Benitez. Abbiamo fatto tutto, abbiamo avuto occasione, normalmente deve segnare. Oggi 94, diciamo che 95, l'arbitro ha detto 94, insomma. È difficile capire, molto arrabbiato alla fine. Ma la fortuna perché con un difensore che va alla sua porta è sempre difficile. Veniamo a casa nostra, Parma decimato dal giudice sportivo dopo la gazzarra e le 4 espulsioni in Parma-Napoli di domenica. Sospesi Gasbarroni per 2 turni, Marigà, Castellini e Falcone per una giornata e domenica gli emiliani affrontano un confronto diretto decisivo a Reggio Calabria. Sentiamo Hector Cooper. I nervi hanno preso a tutti i giocatori, o quasi tutti, e lì praticamente uno ha regalato la partita. Il problema più grave è che quando uno perde la testa, la cosa che deve pensare è la partita che sta giocando, anche tutte le altre partite. Non siamo morti, quello dobbiamo dire, perché ancora non siamo morti. Abbiamo 3 squadre in questo momento sotto di noi e speriamo che alzare la testa, fiducia, e che la prossima partita possiamo vincere 3 punti o guadagnare 1 e fino alla fine prendere 6-7 punti in più. Il giudice sportivo che interviene in modo pesante anche in Serie C. 8 punti di penalizzazione al Lanciano e al Sassari Torres, 2 punti a Olbia, Viterbese, Catanzaro, Castelnuovo Garfagnana, Teramo e Pescara. Queste le sanzioni decise dal disciplinare nazionale nei confronti delle società di Serie C che erano state deferite per infrazioni alle norme Covisoc per l'iscrizione ai campionati. Tutte penalizzazioni da scontare nella corrente stagione sportiva. È arrivata la conferma ufficiale, Sampdoria-Juventus si giocherà dunque in anticipo, sabato 17 maggio in orario da stabilire e non domenica 18 alle ore 15. La decisione è stata presa per evitare la concomitanza con le celebrazioni previste a Genova in occasione dell'arrivo di Papa Benedetto XVI. Per salvaguardare la regolarità, fa sapere la Lega Calcio, con Sampdoria-Juventus verrebbero eventualmente anticipate a sabato 17 stessa ora tutte le partite della 19ª giornata che dovessero presentare interessi di classifica connessi all'esito di questa partita di Marassi. Cambiamo argomento per parlare di nuoto. La vittoria nei 100 d'orso nei campionati francesi addolcisce appena il pessimo momento di Laure Manadou. Dopo il terzo posto nei 400 stile libero, la francese chiude indietro le batterie sui 200, distanza che la vede ancora detentrice del record mondiale. Dunque rinuncia alle semifinali dei campionati francesi e soprattutto non gareggerà ai giochi su questa distanza. Ma sentiamo che cosa ha detto al nostro Dario Ricci Federica Pellegrini. Ma dico che comunque lei arriverà in formissima a Pechino, quindi queste gare non mi impressionano. Non sono contenta che lei non mi abbia preso il record, perché comunque so che la sfida sarà a Pechino. Chiudiamo con il tennis, finisce al secondo turno l'esperienza di Filippo Volandri al torneo di Monte Carlo, l'italiano è stato sconfitto in 2 set dallo scozzese Andy Murray. Andreas Seppi passa invece al secondo turno dopo aver battuto l'argentino Calleri in 2 set, al secondo turno anche Simone Bolelli che batte un altro argentino, cioè Cela, con il punteggio di 6-2, 6-2. È tutto per GR Sport di stamattina, buona giornata.